Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Mi dia un Inca Cola o una scatola di cioccolatini All Care, grazie. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali. Siete pronti all'invasione di prodotti e marchi dai paesi emergenti? Presto diventeranno i protagonisti anche dei mercati occidentali, in grado di soppiantare quelli che conosciamo da generazioni e di modificare così il nostro immaginario di consumatori. Ne parliamo nel primo degli approfondimenti di questa nuova puntata di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Focus sui trend dedicato invece ai consumi usati, dal riciclo all'effetto used, quando il second hand fa tendenza. Ma iniziamo come sempre con le notizie e curiosità di questa settimana. Le famiglie italiane continuano a tagliare le spese, rinunciando anche agli acquisti alimentari. Il giro d'affari diventa sempre più ristretto e neppure i discount, che proprio con la crisi sembravano aver fatto fortuna, riescono a scamparla. Secondo il Codacons, i consumi alimentari in Italia sono a livello di 33 anni fa e Federconsumatori e Adusbef stimano per il 2012 una contrazione di oltre 140 euro della spesa familiare. Proprio per contrastare la crisi, un comune del Piemonte, Varallo Sesia, in provincia di Vercelli, ha deciso di regalare una gallina ovaiola e un galletto a chiunque degli 8.000 residenti ne farà richiesta. Obiettivo dichiarato: tornare alle abitudini del passato, trovando sostentamento dai prodotti della terra. I pennuti, inoltre, possono anche aiutare a ridurre i rifiuti, l'umido in particolare, perché consumano gli avanzi di cibo. E i cittadini potranno avere uno sconto del 10% sulla tassa rifiuti. MySpace esiste ancora e annuncia un restyling. Il pioniere dei social network, creato nel 2003, ex sito più cliccato d'America, caduto in disgrazia dopo l'avvento di Facebook, prova a rialzare la testa cambiando look, con i soldi dell'attore cantante Justin Timberlake, che l'anno scorso ha acquistato la piattaforma. Estée Lauder punta decisa verso l'Asia. La multinazionale dei cosmetici lancerà infatti una linea esclusiva per il mercato cinese, che si chiamerà Osiao, e cercherà di conquistare i consumatori asiatici. Secondo il New York Times, la nuova linea, di lusso, sarà una rivisitazione della medicina tradizionale cinese e della scienza americana del marketing. Si chiude oggi a Bolzano il Festival Internazionale di Storytelling, il racconto orale quale contenitore dei valori e dei simboli di una cultura. Per 3 giorni, cantastorie di tutto il mondo hanno animato le vie della città con le loro narrazioni. La borsa della spesa. A chi en la tierra, como en la costa y la montaña, me encacola. Siempre mi accompagna. The bigger, fuller, bouncier, double-breasted burger from Nando's. Real South Africans love diversity. That's why we have introduced 2 more items: new peri-crusted wings and delicious chinchado and chips. Yeni mi yeni? Ülker Golden çikolatalı krema. Kaşık kaşık çikolata. Quelli che abbiamo appena ascoltato erano gli spot di alcuni prodotti dei paesi emergenti. Per noi oggi sono nomi sconosciuti, ma presto non sarà più così. Basti pensare ad esempio che Inca Cola, la bibita imbottigliata ai piedi delle Ande, popolarissima in Perù, è venduta anche nei supermercati americani. E il gigante turco dei dolci Ulker ha comprato Godiva, il marchio più celebre del cioccolato belga. Un hamburger da McDonald's o un pollo piccante da Nando's, catena sudafricana? Magari con una birra InBev brasiliana o una Snow Beer cinese, la più bevuta al mondo. E per finire, un paio di cioccolatini Ulker, che sono turchi. Se poi ci si sporca la camicia, niente paura. C'è la lavatrice Haier, cinese, prima al mondo nelle vendite di elettrodomestici bianchi. Non solo auto ed elettronica, i prodotti dei paesi emergenti invaderanno presto i mercati occidentali anche in tutti gli altri settori. E così la nostra topografia di consumatori cambierà, rendendo familiari luoghi fino a poco tempo fa sconosciuti.

vuoi rottamare presente e passato, telefonare al mondo e darti ammalato. Di nuovo in studio con Essere Avere, seconda parte dedicata come sempre al focus sui trend. Oggi parliamo di consumi usati. Non si butta via niente. Oggetti, abiti, accessori di seconda mano dunque, ma anche oggetti aggiustati o tornati a nuova vita con gli opportuni accorgimenti. Parliamo di mercato dell'usato, di riciclo, riuso, baratto, riparazione, di tutte quelle pratiche commerciali connesse che vanno sotto il nome di re-commerce. A guidarci nell'analisi c'è come sempre la nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Lab. Patrizia, ben ritrovata. Grazie, buongiorno. Complice la crisi, le nuove abitudini di consumo dettate da una coscienza ecologica sempre più trainante, la cultura del riuso sta diventando il segno distintivo del consumatore critico, consapevole, attento all'ambiente e alla società. Una cultura che fa tendenza, tanto che moda e design strizzano l'occhio all'effetto usato. Patrizia. Sì, siamo tutti più poveri rispetto a 5 anni fa e consumiamo meno, ma soprattutto consumiamo in modo diverso, e l'usato in questo senso si associa evidentemente a crisi, sostenibilità e consumo critico, e comprare o scambiare cose usate di seconda mano è ormai diventata una pratica non solo popolare e diffusa, ma socialmente accettata e anche smart. Quindi l'usato in questo senso è cool nella nuova accezione di pratica intelligente e utile all'insegnamento proprio di un'altra idea di acquisto e di consumo. Quindi non si butta più niente e per esempio si ripara tutto. Sono vestiti e scarpe gli oggetti più riparati, o meglio fatti riparare. Tornano soprattutto nelle grandi città gli aggiustatutto, i piccoli negozi di riparazione, nel caso di abiti e accessori che vengono rimessi a modello o tinti, addirittura ricorrendo a sartorie specializzate anche nell'upcycling di articoli di lusso. È il caso per esempio di Zip, una catena di decine di negozi a Roma e in provincia, che sta avendo un enorme successo proprio in questo ambito. Ma non solo cappotti della nonna, seppur di marca, da riadattare, ma anche new entry nel mercato del riuso, elettrodomestici. La percentuale di riparazioni è passata dal 5 al 15% dal 2011 al 2012, secondo l'Associazione Riparatori di Torino. Nella moda l'effetto usato è quindi un grande trend, che dai jeans sdruciti alle All Star già a brandelli, ai décolleté tacco 12 come quelli di Sergei Ginko, che più che usurate sembrano maltrattate. Insomma, l'offerta di capi effetto lo indosso da sempre è copiosa, e non solo da oggi. Dunque il grande fenomeno dell'estetica dell'usato, che riguarda non solo la moda ma anche la casa. Oggetti nuovi ma vissuti nell'arredo delle case, come Marlene, una classica poltrona reinterpretata da Paola Navone per divani e divani, che è rivestita in pelle ma con segni e imperfezioni di un tempo che di fatto non ha vissuto, non c'è stato, ma che aggiunge fascino all'oggetto evidentemente. Il dato interessante è appunto che l'usato recuperato riguardi anche il mondo del lusso, dell'alto di gamma. Uno tra i molti casi, privategrief.com, l'usato di moda bello, bellissimo e anche sicuro, questa vetrina online italiana di recente lancio che vende abiti fashion usati. Chi ha un abito di un marchio di moda di fascia alta e vuole, virgolette, disfarsene, lo invia al sito, che dopo un esame molto attento di autenticità e qualità lo valuta, decide il prezzo e lo mette in vendita. Il recupero e l'usato sono anche caratteristica comune a moltissime nuove aperture di locali pubblici, bar e ristoranti. È l'uso degli arredi usati che diventano quindi la cifra estetica distintiva. Tavoli, sedie, credenze, eccetera, quindi pezzi recuperati che fanno sentire chi entra in un ambiente già vissuto e dunque dal tono intimo. Dunque l'usato come nuova pratica di acquisto, ma che diventa soprattutto un usato da vendere, e in rete questo è non solo facile ma anche sicuro. Mercati online come eBay o secondhand.it sono luoghi dove si trova tutto, si può vendere e comprare tutto, dalle case alle automobili, agli asciugacapelli, ai gatti, agli sci, ai computer, e consentono di dare valore economico appunto al proprio usato. Uno degli ambiti più gettonati è il mondo bambini, abitudini, vestiti, giochi, accessori, arredi della cameretta con marketplace proprio dedicati come Recrib o Stork Brokers o l'italiano Triciclo, primo negozio usato chic in franchising di posizionamento alto. Al riciclo e riuso fanno riferimento anche molti libri, cartoni e spettacoli per bambini con una sensibilità ambientale che guarda a loro come ai consumatori del futuro. Su tutti abbiamo scelto un maestro, Miyazaki, che nel suo ultimo film Harriet, il mondo segreto sotto il pavimento, condensa il suo messaggio ecologista di sempre. Basti pensare che il titolo, tradotto dall'originale, suona più o meno così: Harriet, colei che prende in prestito. I'm 14 years old, I am pretty. Dal suo piccolo angolo segreto, sotto al pavimento sto da sé. La scoperta di un mondo più grande. Un incontro inaspettato. Desidero che non ti curi più di noi. Vorrei poter parlare con te. Gli umani sono pericolosi. Se ci scoprono dovremo traslocare. Comunque io, sai, mi chiamo Shaw. E il tuo nome qual è? Un nome ce l'hai? Ma certamente che ce l'ho. È Harriet. Patrizia, le ricadute commerciali invece di tutto questo fenomeno quali sono? Ma le espressioni commerciali dell'usato sono molto interessanti, qualche dato: sono 12.000 in Italia gli addetti nel settore di vendita al dettaglio di oggetti di seconda mano, oggetti che vanno dai libri ai mobili ad articoli vari. E a proposito di libri, da citare il caso spagnolo della storica libreria La Cascheria di Madrid, che vende libri di seconda mano e ha introdotto il sistema di vendita a peso, 10 euro al chilo con tanto di bilancia da salumeria su cui calcolare il valore dei grammi o dei chili delle pagine acquistate. È il re-commerce evidentemente il fenomeno più interessante, parlando di usato, perché segna il passaggio dal modello brand che producono, consumatori che acquistano, al modello consumatori che diventano venditori, o meglio rivenditori. È la rottamazione dell'usato in cambio di sconti sul nuovo, che è una delle formule stimolo per gli acquisti, che da un lato soddisfa il desiderio di acquisto che un po' si è affievolito in questi anni di crisi, ma non proporzionalmente alla diminuita capacità di spesa delle persone. E dunque il re-commerce, che tutti associamo al mercato automobilistico, in realtà si sta estendendo con casi interessanti anche ai beni non durevoli, ai servizi, moda in primis, come abbiamo visto. Tra i nuovi comportamenti c'è quindi quello di riportare in negozio i prodotti usati, negozio non solo fisico ma anche e soprattutto online. IKEA per esempio dal 2010 ha introdotto la vendita di mobili di seconda mano, e gli esempi sono tantissimi, da Mango, catena spagnola di abbigliamento low cost, a department store come il britannico Marks & Spencer, a marchi come Levi's, Adidas, AGV, il produttore di caschi. Insomma, sono sempre di più le aziende che praticano, con variazioni sul tema, il ritiro dell'usato con sconti sul nuovo. Non sorprende che l'usato incontri il baratto. Nulla è inutile, l'usato ha un valore, e con il riuso di oggetti non nuovi si può anche acquistare senza spendere denaro. Un caso interessante italiano è Reuse, scritto con due o.com, e tutti i siti comunque che vendono o scambiano oggetti usati con il sistema dei crediti. E su Facebook conta già 70.000 iscritti in tutta Italia il gruppo Te lo regalo se vieni a prenderlo, oggetti che non servono più donati a chi è interessato. Basta appunto che si occupino del ritiro di persona, non si paga nulla, è sufficiente un annuncio e una foto dell'oggetto postati sul social network. Il mondo dell'usato evidentemente è molto potenziato dal lato social e sta esprimendo anche sul fronte più intrattenitivo, offline, del mondo dell'usato, anche legato all'immaginario nostalgico retro. Il caso Circo delle Pulci, questa neotribù nomade metropolitana che si fa portare di un'estetica neofreak tra il circense, il burlesque e il vintage, che quasi una volta al mese irrompe nelle domeniche delle grandi città italiane con eventi che sono un po' festa di piazza, un po' DJ set, un po' karaoke con spettacoli di magia, giocoleria e via dicendo, che pone un'enfasi particolare proprio sui mercatini dell'usato, a cui si aggiunge anche l'autoproduzione. cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a Milano? Oggi non ci siamo mossi di molto per trovare le ultime novità in fatto di riciclo e riuso, ce le racconta come sempre la nostra Urban Watcher Alessia Zampano. Ciao Alessia. Ciao, un saluto a tutti. Dunque, il riuso è un tema scottante anche in architettura. Pensiamo a quanti edifici più o meno abbandonati potrebbero essere recuperati evitando nuove e insostenibili costruzioni. Ecco, è proprio da questa riflessione che nasce il progetto Impossible Living, che nonostante il nome inglese è una startup tutta made in Italy, fondata da due ragazzi under 30, un lui ingegnere e una lei architetto, startup che ha l'obiettivo di mappare gli immobili in disuso dal basso utilizzando il contributo degli utenti. Impossible Living infatti è un sito web e un'applicazione per iPhone e Android in cui ci si registra e si possono segnalare gli edifici dismessi caricando foto e informazioni che poi in modalità wiki le persone possono implementare. La missione che i due fondatori si sono dati è quella di creare un database potenzialmente mondiale delle architetture inutilizzate come primo e necessario passo per attivare i processi di riqualificazione, perché il loro progetto è molto più ambizioso e riguarda appunto anche la futura destinazione degli edifici segnalati. L'idea è che ogni edificio possa creare attorno a sé una comunità di diversi contributi e competenze e quindi di imprenditori, progettisti, investitori, i proprietari stessi degli edifici, al fine di collaborare per ridare nuova vita a queste strutture. Grazie Alessia, in bocca al lupo a questo progetto veramente molto bello. Patrizia, siamo in conclusione. Da pratiche di necessità, tutti i fenomeni di cui abbiamo parlato oggi sono ormai diventati comportamenti per scelta, sono destinati a durare nel panorama dei consumi? Sì, l'usato è sicuramente una parola chiave del futuro. Sul piano più dell'immaginario ricrea questo fascino del passato, ma soprattutto in termini proprio quotidiani, pragmatici, la rimessa in circolo dell'usato incontra le nuove istanze e ambientali e sociali e economiche. Non si spreca, meno rifiuti, la rete rende facili gli scambi, dunque risparmio, sostenibilità e partecipazione allargata sono un po' questi il motore dei consumi del prossimo futuro. Esseravere @radio24.it, scriveteci, aspettiamo le vostre idee, i vostri suggerimenti anche sulla nostra nuova pagina Facebook, raccontateci i vostri consumi usati, come li abbiamo chiamati oggi. A domenica prossima, stessa ora, un saluto da Maria Luisa Pezzali.